Buonasera a tutti, inizia Zardins Magnetics, programma che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dai studi di Radio Onde Furlane, ma andiamo subito con quella che è la sigla di questa trasmissione. Questa è la sigla di apertura per questo programma che è Zardins Magnetics in diretta radiofonica dai studi di Radio Onde Furlane, trasmettiamo da Udine. Ricordo che il programma viene condotto dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Friuli e Trieste. Oggi appunto 13 giugno, andremo avanti fino alle ore 21:30 come di consueto e ora andiamo invece all'ascolto di questa band esordiente direttamente da un loro mini CD, ovvero un demo tape. Tra l'altro si chiama proprio Tre Canzoni, perché sono proprio registrate all'interno tre canzoni. Loro sono i Reciso ed è una band dell'area di Treviso. Bene, ciao a tutte e a tutti, anche da parte mia. Per stasera siamo qui a Zardins Magnetics, come è già stato detto, programma che va in onda in diretta, già stato detto, su Radio Onde Furlane, di cui siamo ospiti e che ci ospita, emittente in FM e in streaming se ci ascoltate in diretta, altrimenti sui nostri canali in differita. Sono in questo momento che vi sto parlando solo per darvi, annunciarvi la, diciamo, il sommario, che poi è un modo di dire, di questa puntata del 13 giugno. Sarà questo lo sommario. Una prima, diciamo, un primo blocco. La mala sanità in carcere è tortura, un grido di aiuto dal 41 bis. Vedremo, insomma, avremo un ospite telefonico. Secondo blocco e ultimo, diciamo blocco storico, fra virgolette, poi vedremo, adesso non mi dilungo, le lotte contro l'isolamento nelle carceri speciali. La distruzione dei vetri divisori nei colloqui durante le lotte, appunto, all'Asinara. Ecco, ho detto quello che avevo da dirvi. Chiesto se volevo scrivere due righe per descrivere il trattamento sociosanitario di questo centro detentivo sanitario che tanti a torto definiscono eccellenza. Per farlo ci vorrebbero parecchi tomi. Ho visto morire detenuti con sofferenze disumane nell'indifferenza collettiva. Somministrano psicofarmaci a dosi industriali, ma non si vedono psichiatri. Detenuti che non si fanno docce da mesi. Chiedere una visita medica si fa prima a chiedere udienza dal Papa. Stessa cosa vale per il direttore, gli educatori, eccetera. Praticamente manca, per onere di verità, il maltrattamento fisico, ma non perdiamo di vista che quello psichico fa ancora più male. Ciò che dico è facilmente riscontrabile dalle videocamere. Allora, un saluto anche da parte mia. Questo che vi ho appena letto è un estratto di una lettera che il signor Gerardo Schettino ha scritto alla figlia, e figlia che appunto abbiamo, dovrebbe essere già in onda, sarà ospite stasera da noi per raccontare. Ci sei? Sì, sì, ciao, ciao. Per raccontare appunto questa storia, la storia di suo papà, una storia diciamo paradigmatica di quella che è la forma di tortura costituita dalla malasanità in carcere, ma non solo dalla malasanità, anche dall'abbandono sanitario, diciamo, dall'incuria sanitaria che è così pervasiva nell'istituzione carceraria. E, io lascerei la parola a te, in modo che tu racconti un po' tutto, insomma, tutta la vicenda di tuo papà, e poi così dialoghiamo sulle sì. questioni. Perfetto. Allora, parto dal principio. Il 4 ottobre 2018 c'è stato un arresto per associazione mafiosa. E mio padre era detenuto al 41 bis all'Aquila dopo vari spostamenti. E il 20 ottobre 2021, e sottolineo dopo la seconda dose del vaccino AstraZeneca, e mio padre non ha sentito più le braccia, non ha sentito più le gambe. Essendo al 41 è un po' difficile ricevere assistenza e soprattutto essere creduti. È andato, per quello che lui mi ha detto, è andato in infermeria per ben 2-3 volte, ma purtroppo non riuscivano a capire qual era la causa, anzi pensavano che stesse tra virgolette tentando di scappare da qualche parte. Era totalmente paralizzato. Lui dice di aver visto come una figura di Padre Pio, che è stato l'unico, non so se era un secondino, ma lui non l'ha mai visto né prima e né dopo, e assomigliava a Padre Pio ed è stato l'unico che si è preso la responsabilità di chiamare il 118 e portare mio padre al San Salvatore dell'Aquila. Da lì hanno riscontrato la sindrome di Guillain-Barré. Era gravissimo. Essendo al 41 i familiari non potevano ricevere nessuna notizia, e siamo riusciti ad andare a trovare mio padre, oltretutto dietro un vetro. Mio padre era su una sedia a rotelle, no, all'inizio era su una barella di ferro. Si presentava ai processi su una barella di ferro, e soprattutto tante volte, forse per la malattia, non lo so, con febbre a 39. E dopodiché, dopo 9 mesi che è stato al San Salvatore, chiuso in una stanza completamente da solo a guardare il soffitto perché non c'era neanche televisione, hanno fatto richiesta quelli della casa circondariale dell'Aquila, che lì non poteva più rientrare, comunque in ospedale era inutile tenerlo, e hanno fatto richiesta a qualsiasi carcere che avesse il centro clinico. E mio padre ad oggi si trova a Milano Opera fino a dicembre 2023 al 41 bis. Quindi era una tortura sia per noi familiari, che non avevamo nessuna notizia, e sia soprattutto per lui in quelle condizioni. E da dicembre 2023 c'è stata l'assoluzione in associazione mafiosa, tutti sono stati scagionati e mio padre no. Mio padre no, perché aveva un definitivo. Ad oggi lui si trova all'interno della casa circondariale di Milano Opera per una calunnia del 1999, e stiamo chiedendo a qualsiasi centro riabilitativo se lo prende anche da detenuto, ma purtroppo la risposta è sempre no. A casa non me lo fanno portare perché preferiscono tenerlo in carcere, e tutto questo con carte dei periti dove lui è incompatibile con la struttura carceraria. E io grido aiuto e vorrei essere ascoltata, ma soprattutto credo che come me ce ne sono tanti altri, e trovare una soluzione a tutto questo, perché è veramente disumano. E qualche giorno fa, oltretutto, la dottoressa del carcere gli aveva sospeso anche l'eparina, nonostante mio padre c'è una sedia a rotelle, quindi comunque è paralizzato anche se muove solo le braccia, perché per lei non doveva prenderla a vita, quindi è da pazzi. Tra l'altro nomini la dottoressa del carcere, e nell'ultimo bollettino di Olga proprio viene nominata, in una lettera di un altro detenuto di Opera, appunto, viene nominata questa dottoressa come un soggetto che menefreghista rispetto alla salute, alla salute dei detenuti. Purtroppo i sanitari, diciamo che molto spesso i sanitari sono complici degli aguzzini in divisa, io li chiamo così, e invece di garantire l'assistenza, insomma, la salute dei detenuti, hanno un atteggiamento, sì, hanno lo stesso atteggiamento che hanno le guardie, invece non dovrebbe essere così assolutamente, no? Perché, assolutamente. Sì, tra l'altro, appunto, come ci si diceva quando ci siamo sentite per preparare così la trasmissione, anche noi siamo inquisiti e anche stati condannati, in verità, in primo grado, però siamo in appello proprio per aver denunciato anche qui in regione fatti di mala sanità, insomma, i sanitari, diciamo, che sono conniventi con la struttura carceraria non si toccano, no? Sono intoccabili, sì. E quindi perpetuano queste forme di tortura legalizzata, sì, con altri metodi che non siano quelli dei pestaggi o di altre forme, insomma, di violenza che si sa che poi all'interno delle carceri avvengono. E quello mi aveva colpito del tuo racconto, il discorso di Padre Pio, nel senso che è significativo che l'unico soggetto che ha accettato di ascoltare tuo papà senza pensare, diciamo, a finzioni o a trucchi è un soggetto che poi, cioè, non avete più visto, esatto. Mai visto. Mi ha solo detto, oltretutto mio padre con questa sindrome è stato colpito anche gli organi interni, che fortunatamente, grazie a questa visione di Padre Pio, sono stati presi in tempo, perché lui è stato intubato, lui è stato in coma, e quindi fortunatamente lui internamente, gli organi interni sono stati salvati. Ora è tutto un fatto di muscolatura, è paralizzato, però questo secondino, diciamo che gli ha salvato la vita, c'è, cioè, il fatto di aver chiamato il 118, non sa dire, io non l'ho mai visto né prima e non l'ho mai visto più dopo. Appunto, questa cosa è paradigmatica, perché come dire che all'interno del carcere, cioè, solo un miracolo, cioè i secondini, si può solo contare su un miracolo, ecco, non di certo sulla buona volontà dei secondini o sul senso di giustizia dei secondini. E poi un'altra cosa, dicevi del processo, se vuoi dirci qualcosa in più, dicevi che veniva portato a udienza in barella e in condizioni di salute molto precarie, così, se vuoi dirci qualcosa anche di come è stato trattato, diciamo, in udienza anche dai giudici o dai pubblici ministeri, eccetera. Certo, veniva trattato da cani, vengono trattati benissimo, da mostro, questa è la parola giusta. Mio padre veniva trasferito in udienza con lui la chiama la lettiga, e oltretutto non poteva rifiutarsi perché altrimenti il processo comunque non poteva andare avanti, e c'era anche la scadenza termini. Quindi per andare avanti loro accettavano qualsiasi cosa. È stato in udienza con febbre a 39, dove loro vedevano, anzi per giunta pensavano anche che era finto questa cosa, ecco. E niente, quando mio padre si è ammalato è stato anche detto che in realtà lui era lucido perché rispondeva alle domande. E non credo che neanche la persona, diciamo, più cattiva di questo mondo direbbe una cosa del genere. Ma la sua lucidità quindi era vista come un aggravante, sì, diciamo? Certo, certo. Mm-hmm. Certo. Cioè, avrebbero preferito una sì, persona incosciente piuttosto che sì, una che invece... Una paralizzata. Una paralizzata, ma con una sua coscienza e sì, e anche una sua forza di volontà, no? Sì, questo a loro non andava giù. Comunque al primo grado hanno preso 25 anni, ma noi siamo in appello e c'è stata la soluzione. Sì, questa è una notizia importante perché... Certo. Molto importante, sì. Certo, però come le dicevo anche l'altro giorno al telefono, mio padre è dentro per calunnia, uh-huh, è un fatto che stiamo parlando del 1998-99, uh-huh, e io sono sicura che se mio padre stava bene, lui era già fuori da tanto tempo, come... Sì. Cioè non si può stare all'interno di un carcere per calunnia, soprattutto in quelle condizioni, ma soprattutto con una carta che è incompatibile con la struttura carceraria. Sì, sì, purtroppo queste sì, spesso no, ci sono queste certificazioni di incompatibilità che poi vengono smentite dall'istituzione detentiva, perché appunto... Come diceva anche nell'estratto della lettera che ho letto, anche se non c'è violenza, non è necessario che ci sia maltrattamento fisico, diciamo, per sottoporre a tortura un prigioniero, no? Sì, sì, sì, sì. Perché anche questa cosa di non l'incuria, ma anche il fatto di non di disumanizzare, insomma, le persone, per cui anche le parole, quello che dicono non conta, quello che sì, l'espressione insomma di qual è la loro condizione non conta, anche questa è una forma appunto di tortura, di annientamento, che dimostra, per come la vediamo noi, che il carcere è irriformabile, cioè non è che ci può essere un carcere buono. Infatti sì, per giunta mio padre che è in quelle condizioni, noi abbiamo le sue ultime cartelle cliniche, sì, che risalgono al 2022. E quindi qualsiasi clinica che noi abbiamo chiesto per la riabilitazione, ok, ci hanno risposto no perché detenuto, però comunque vorrebbero una carta del fisiatra aggiornata, okay, ed è impossibile, mm-hmm, averla. Io gli ho anche detto, papà, chiedi alla dottoressa del carcere, e ovviamente la risposta è stata non ho un buon rapporto perché è impossibile avere un rapporto, mm-hmm, e non me la farà mai. Ho dovuto contattare un privata, sì, per fare tutte le richieste per farlo accedere e pagarlo per avere questa carta del fisiatra. Ho capito. Quindi sì, sì, una perizia esterna, diciamo, ma e viene accettata questa cosa? Verrebbe accettata nel centro riabilitativo. Sì, e poi il magistrato di sorveglianza deve dire la sua. Certo. Certo. Mm. E noi siamo sempre con le dita incrociate. Certo, infatti. È importante anche, è giusto insomma che diffondere anche questa storia, che chiaramente non è l'unica storia, ce ne sono tantissime, ma ogni storia è importante, no? E farla conoscere insomma il più possibile, diffondere al più possibile, certo, non tenere nascoste queste cose, perché... Io ho contattato parecchie associazioni, ho, uh-huh, contattato le Iene, dove non mi è stata neanche una risposta per dire no, non vogliamo saperne del tuo caso, uh-huh, e ho contattato parecchio, è la prima volta che ne parlo, vi ringrazio che mi avete dato no, spazio. Noi ringraziamo te perché è importante. Perché giusto, le ripeto, non sono credo la sola. Ed è giusto che diamo voce. Sì. Sì, tra l'altro parlandone io penso che si crea anche una solidarietà, no? Tra i vari prigionieri che anche nelle condizioni più diverse possono comunque darsi forza uno con l'altro, insomma, quantomeno i familiari, voi familiari potete, certo, fare questo. Certo. Certo. E, no, rispetto appunto a Milano Opera, appunto al centro detentivo, ricordo anche che anche Alfredo Cospito, appunto compagno, sì, anarchico che è stato 181 giorni in sciopero della fame, anche lui parlava di questo centro detentivo come di un Sì, di un cronicario, di una, con persone proprio moribonde, cioè aveva anche lui, aveva avuto questo, proprio questa percezione, insomma, questa visione del centro. Addirittura mio padre ha detto che c'è stato un detenuto che era morto per più di 24 ore, ma se ne sono resi conto dopo. Non so, vuoi raccontare qualcosa? Non so, mi viene in mente, perché dice il papà ha fatto 5 anni di 41 bis, quindi giusto? Sì. Se magari ti va così di parlare anche di come, dal vostro punto di vista, cioè di appunto persone care, come avete vissuto questi lunghi anni, perché prima dicevi dei colloqui attraverso con il vetro, appunto, della impossibilità di avere notizie sulla condizione. Sì, sono tutte cose che appunto con il vetro, non avendo la possibilità di ricevere una telefonata. Mm-hmm. Durante il Covid, che non si poteva andare, io andavo una volta al mese. Sì. Durante il Covid non si poteva andare, e c'era stata accettata una telefonata di 10 minuti, o in caserma o dovevamo andare alla struttura più vicina carceraria. Sì. Per 10 minuti di telefonata, cioè noi avevamo un'ora di colloquio però al mese. E 10 minuti al mese? Non avevamo un'ora di colloquio visivo, facevamo 10 minuti al mese di telefonata. Ho capito. È stata una tortura, un po' per tutti. Per giunta nel 2019, questo apro e chiudo parentesi, dicembre 2019, mio fratello, il più piccolo, cade da 10 metri ed è andato in coma per 16 giorni. Mm-hmm. E lui, l'unica notizia che poteva avere era da parte nostra. Io ogni mattina gli inviavo un telegramma per fargli ricevere qualche notizia. Sì. Veloce, e avevamo fatto richiesta per farlo andare in ospedale per trovare il figlio. Comunque era in coma e non sapevamo se si svegliava, come si svegliava o se non si svegliava proprio, ed è stato risposto che non è morto, quindi non c'è bisogno che vai. Stiamo sì, parlando sì. di un ragazzino di 16 anni. Sì, è allucinante. È stato, diciamo che sono stati 5 anni tra 41 e tutte le vicende che ci sono state dietro, che ad oggi, ripensandoci, diciamo, ma è possibile che sono passati 5 anni e cioè, sembra tra virgolette come se abbiamo passato un incubo, ma che in realtà non è così, però l'abbiamo vissuta. Mm-hmm. Ecco, non so, ci sono altre cose che vorresti segnalare? Vorrei solo che il mio grido arriva e troviamo, devo trovare il sistema per farlo uscire da lì. Quello sì. vorrei, ma come vorrei per mio padre, vorrei per tutti, soprattutto certo. per chi non sta bene. Io credo che se qualcuno ha da scontare qualcosa, va bene che la sconti, ma non così, cioè non si può, anche perché credo che soprattutto chi è innocente o chi non ha fatto nulla esce da lì, secondo me, incattivito. Vabbè, comunque, diciamo, questo è il mio punto di vista. Qualsiasi sia il reato, diciamo, che un soggetto ha compiuto, il trattamento di disumanizzazione e di tortura non può essere accettato in nessun modo. Sì. E invece, ma d'altro canto, il 41 bis è stato creato proprio per piegare, no? le persone, e appunto, come si sa, l'antimafia e antiterrorismo, adesso c'è anche l'antiterrorismo, noi insieme all'antimafia è come una specie di cupola intoccabile, insomma, perché in nome di quello si può fare qualsiasi efferatezza, e lo Stato può compiere qualsiasi efferatezza, Sì, e sembra che sia giustificato, insomma, a farlo. E poi, come sempre, si vedono, diciamo, si dà la responsabilità dei reati ai soggetti, ai singoli soggetti, ma non si vedono le motivazioni per cui magari ci sono certe situazioni, anche, no? Anche parlando di mafia, insomma, che è un tabù. E, sì, così. Noi abbiamo scritto anche a Mattarella. Uh-huh. Ma la sua risposta è stata che contro l'antimafia non si mette. Ecco, a posto, siamo a posto, quindi. Sì. Scusa se rido, ma non ho tanta simpatia del soggetto. Sì, ma noi non volevamo che nessuno si metteva contro nessuno. Uh-huh. Era semplicemente un grido di aiuto, perché mio padre era in quelle condizioni, non lo volevamo portare a casa. Uh-huh. Ci veniva risposto che poteva essere pericoloso e poteva prendere, poteva fuggire, un soggetto paralizzato. Sì, sì. Dove doveva scappare? Però volevamo solo una mano, un aiuto. Uh-huh. Così, niente, non so se tu hai cose da aggiungere. Io credo dimmi. Comunque di aver detto tutto. Sì. Mi sembra che sia stata anche molto chiara anche nel raccontare un po' tutto il percorso così carcerario. E niente, secondo me è significativo, la soluzione è una cosa importante, quindi. E anche dicevi anche che tuo papà ha molta forza di volontà, non si arrende, sì. Insomma, anche rispetto alla sua malattia non è che si lascia andare, ecco. Assolutamente no. E anche questo è importante. E anche poi voi come famiglia, tu insomma, siete tenaci e non mollate, quindi questo è importante. Sì. E io vi auguriamo noi dell'Assemblea contro il carcere e la repressione di riuscire, insomma, a rompere questo, sì, questa situazione terribile e di riuscire a poter portare, insomma, tuo papà in un centro riabilitativo. E cerchiamo di diffondere il più possibile questa tua testimonianza, insomma, anche attraverso, con i nostri mezzi. Noi siamo lontani, diciamo, sia da Milano, che però comunque, insomma, è importante che sì, diffonderlo sì. Il più possibile, ecco, questa situazione, certo. Qua. E se ci sono aggiornamenti, se hai aggiornamenti, spero buoni, magari fatti sentire, fai sapere, certo, insomma. Senz'altro. Bene. Se ci sono aggiornamenti buoni, sicuramente la prossima volta, magari, se vi fa piacere, la diretta. Sì, volentieri. Bene, allora noi ti ringraziamo e ti salutiamo. Grazie a voi per questo spazio che mi avete dato. E tantissima solidarietà a te, a tutta la tua famiglia e a tuo papà. Grazie. Ciao. Ciao. We'll be right back. stiamo ascoltando questa band brasiliana, loro sono gli Scarnio, una band che era nata negli anni 80, ma in realtà non ci fu nessuna uscita discografica, e quindi nel 2006, da vecchissime registrazioni, è stato effettuato questo album che si chiama Pobre Natureza, Scarnio. Bene, questi erano gli Scarnio, band brasiliana che ha esordito negli anni 80, ma nel 2006 ci fu così un ripescaggio di vecchissime registrazioni che nemmeno all'epoca uscirono su tape. Comunque ora andiamo invece all'ascolto di un album, una compilation su LP 12 pollici, che era un benefit per Animal Liberation Front, che si chiamava Devastate to Liberate, dove uscì in in Inghilterra, dove parteciparono band addirittura tipo così, forse credo quella più conosciuta nell'ambito dell'anarcopunk, ovvero i Cress, che nonostante la loro etichetta eccetera eccetera parteciparono ad una cosa, ad un'uscita discografica estranea ai loro giri. E comunque nel 1985 uscì questa compilation, che magari ora andiamo con l'ascolto di questa prima band, che sono i Norse with Wand, e poi avanti altri gruppi e vedremo, insomma. Cazzo devo dire, il mio cambo. Yeah. Eccoci qua di nuovo, Zardins Magnetics. Io devo dire che stasera ho una fissa su Radio 3. E, niente, stasera sembra veramente di essere alla RAI, sì, cioè telefonate importanti, degli svarioni anche dalla regia. Poi manca poco e arriviamo anche noi, ecco, ai livelli di Radio 3. Boh. No, c'è un collegamento, ecco appunto, non per fare i gradi di separazione, però c'era 41 bis, Cospito, e i Cress su una compilation per l'ALF, che era comunque Cospito, riprende certe anche tematiche di quel momento di lotta là, e quindi ecco il prossimo grado di separazione è appunto un ritorno all'Asinara, all'isola appunto degli asini, dove negli anni degli anni 70 appunto ci fu furono rinchiusi, insomma, fu dichiarata guerra ai guerriglieri, quella generazione, insomma, di combattenti di nome di fatto. E vi dicevo la scorsa settimana avevamo fatto una specie di anteprima, appunto con l'arrivo di Galvaligi, del generale, dei generali, insomma i carabinieri, Galvaligi e dalla Chiesa, vi avevo raccontato, io nei miei appunti ho scritto appunto l'elicottero, no? Questo trasferimento del narrato da Pasquale Abatangelo, di Pasquale stesso insieme ad altri suoi concellini, dall'Asinara in Sicilia, e furono appunto resi, insomma, soggetti a questa specie di esecuzione militare, colpo di stato, non si sa bene cosa, ecco, dove appunto l'elicottero si fermò a fare rifornimento in una base segreta. Io andrò un po' a braccio, cioè io vorrei soprattutto leggervi direttamente dalla voce, la voce di Pasquale Abatangelo, e le vicende, perché è la cosa migliore, secondo me. Casomai farò dei commenti, insomma, così, degli incisi, quando mi vengono in mente. Allora, ecco, sì, quindi siamo nell'estate 77, però cosa succede? Ecco, fa un po' un quadro, ecco, adesso dove vi leggerò questa paginetta di quello che stava succedendo là. Insomma, farò dei salti perché è lunga, se no. E quindi lui si trovava a Poggio Reale all'inizio di dicembre, cominciano ad arrivare a Poggio Reale, no scusate, lui si trova sempre a Favignana, mi sembra, e poi è stato di nuovo trasferito all'Asinara, ma comunque all'inizio di dicembre cominciarono ad arrivare a Poggio Reale gli altri militanti dei NAP. Era stato fissato il processo di appello per le accuse di banda armata e associazione sovversiva, e per la seconda volta ci trovavamo riuniti nel carcere napoletano a discutere delle prospettive e dei comportamenti politici da tenere. Ma quello che stava finendo non era stato un anno qualunque. Il movimento del 77, dopo il convegno di settembre tenuto da Bologna, lottava per non soccombere nella tenaglia della repressione organizzata dalla DC e dal PCI, Democrazia Cristiana, Partito Comunista Italiano. Negli scontri di piazza erano stati uccisi Francesco Lorusso, Giorgiana Masi, Walter Rossi. Ciononostante, quel movimento non si era affatto dimostrato incline al vittimismo. Nelle battaglie di strada erano morti anche poliziotti. Settimio Passamonti a Roma, Antonio Custra a Milano e l'assassinio di Walter Rossi per mano dei fascisti sarebbe stato vendicato di lì a poco, a gennaio 78, davanti alla sezione romana dell'MSI di via Acca Larenzia. Quello che stava accadendo appariva evidente. Il sistema faceva quadrato intorno ai governi andreottiani della cosiddetta solidarietà nazionale e i dirigenti del PCI, pieni di rabbia, dovevano constatare che la loro sofferta responsabilità era solo servitù volontaria verso una borghesia che, al contrario, avrebbe dovuto essere attaccata anche solo a livello parlamentare nel momento della sua massima crisi. Si trattava di una situazione talmente chiara che alcuni importantissimi intellettuali stranieri, tra cui Sartre e Foucault, avevano firmato a luglio un appello contro la repressione in corso in Italia con la complicità della sinistra storica. E del resto, il 2 dicembre 77 furono gli stessi metalmeccanici organizzati dalla FIOM a indire uno sciopero generale contro il governo che si reggeva sulla stensione del PCI. Ferrattini, eccetera. In questo quadro politico e sociale, la lotta armata non poteva che crescere nella sua influenza e nei suoi effettivi. Le Brigate Rosse avevano ripreso la loro marcia dimostrando una capacità di riorganizzazione che ormai le vedeva attive e capaci di assestare duri colpi a Torino, Milano, Genova e Roma. Anche il contesto internazionale spingeva per una radicalizzazione definitiva dei comportamenti della sinistra sorta dalla rottura del 68. In Germania il conflitto tra RAF e socialdemocrazia aveva toccato il punto più alto nell'autunno 77, col rapimento del presidente della Confindustria tedesca, Hans Martin Schleyer, il blitz delle teste di cuoio a Mogadiscio e i fatti di Stammheim. Ci sono momenti nella storia in cui si sta da una parte o dall'altra. In quel finale di 77 le alternative erano secche, taglienti, distillate da una lunga catena di esperienze dolorose e istruttive. Le retoriche del sangue e del militarismo non c'entravano proprio nulla. Semplicemente, certe volte, la guerra non si può scansare. Sì, qua va fatto forse un inciso sul fatto che si riferisce a Battangelo al fatto che si parla continuamente, ancora insomma da molti anni, da quando è avvenuta quella sconfitta, insomma, per opera del pentitismo, per opera delle torture, per opera di desolidarizzazioni, disgregazioni varie, e quindi stiamo parlando di più di 35 anni fa, 40 anni fa, e non si fa che parlare di questi anni in termini di, non si è fatto che parlare di questi anni 70 in termini di anni di piombo, in termini di terrorismo, appunto, con molti dei protagonisti di quelle lotte che comunque hanno a volte trovato una fuga in questo discorso del, appunto, retoriche del sangue e del militarismo, insomma, in cui si era risolta alla fine le pratiche di lotta, le pratiche con le strategie anche a lungo e a media scadenza, sono appunto parole, sì, sono pietre più che parole, perché vuol dire così anche una ridurre tutto questo complesso così percorso di questi compagni a delle, a una, così, a un colpo di spugna, cioè parole così definitive, ecco, che definitive, che imprigionano letteralmente una galassia di possibilità. Semplicemente, diceva Battangelo, certe volte la guerra non si può scansare e non si possono scansare nemmeno gli inventari e i bilanci. Noi dei NAP eravamo costretti a farne di particolarmente amari. Ecco, poi queste insomma nelle righe seguenti apre un così un po' una finestra su quello che era stato il percorso dei NAP, nuclei armati proletari, di cui lui stesso aveva fatto parte, era andato a finire in carcere perché appunto è stato catturato durante un'azione andata a finire malissimo, una rapina appunto per, ecco, virgolette, una rapina, un esproprio per finanziare i progetti appunto di guerriglia dei nuclei armati proletari. E niente, sì, va a finire, cioè, ecco, c'è questo passaggio dei NAP che ormai si trovano, si può dire, 99% sotto, dentro, insomma, catturati dal nemico, dietro le mura, insomma, delle prigioni di Stato, e il passaggio a qualcos'altro, ecco. Dice sempre Battangelo: c'era un orgoglio di organizzazione che aveva pure il suo senso e che in qualche modo poteva vantare a suo credito una certa sintonia tra le tematiche del proletariato centro-meridionale analizzate dai NAP tra il 74 e il 76 e quelle messe in evidenza dai non garantiti del 77. Non era secondario che nella loro azione e nella elaborazione teorica e politica le BR avessero assunto ufficialmente i terreni di lotta inaugurati dai NAP, ma i NAP non potevano essere assorbiti dalle BR come un gruppetto qualunque. Avevano la loro storia, la loro fierezza, avevano i loro morti, rimasti numerosi sull'asfalto per affermare la dignità dei dannati della terra. Ecco, tra gli altri ricorda, insomma, in maniera così bella a Battangelo la figura di questo compagno fiorentino, si chiama Fiorentino Conti, che appunto con il quale ebbe modo di lottare fianco a fianco, e poi dice anche dopo la insomma ha terminato di scontare la pena negli anni 90, era anche completato la semilibertà lavorando in una cooperativa addetta a manutenzione eccetera. Esauriti questi obblighi si era licenziato abbandonando il lavoro per il quale da vecchio ex delinquente nutriva una inguaribile allergia. Era morto come un barbone scontroso e forse era morto come un re. O forse era morto come un re. Ecco, torniamo adesso veramente nel discorso dell'Asinara. Tornai all'Asinara l'8 marzo 78, anzi, come dicono a Radio 3, 1978. Mio fratello era stato trasferito a Trani, venni collocato nella diramazione ormai completamente attiva di Fornelli. Notai subito che il nostro documento di Napoli, ho dimenticato, ho saltato che insieme ad altri due compagni a Battangelo passa quindi definitivamente le Brigate Rosse, cioè alla parte prigioniera delle Brigate Rosse. Il documento di Napoli ha prodotto un certo dibattito tra i prigionieri, quelli delle BR ovviamente l'avevano apprezzato, ma anche altri compagni dei NAP che non avevano presenziato il processo e alcuni militanti di formazioni minori erano interessati a discutere nel merito delle nostre posizioni. Naturalmente non mancavano i dubbi e le perplessità, c'erano anche decise opposizioni, ma sentii che avevamo fatto bene a indicare insieme ai pregi anche i limiti della nostra esperienza, ponendo con chiarezza il problema della confluenza nelle BR. Infatti, poche settimane prima del mio arrivo a Fornelli, il 14 febbraio 78, le BR avevano attestato senza ombra di dubbio il coinvolgimento completo dell'organizzazione nata nelle fabbriche nella lotta contro la repressione carceraria. Nelle celle di ogni campo, come iniziavamo a chiamare le prigioni del circuito dei camosci, la notizia ebbe una straordinaria rilevanza. La notizia è che le BR colpirono il responsabile dell'edilizia carceraria, Riccardo Palma, colpirono a morte. La notizia ebbe una straordinaria rilevanza. Ci stavano massacrando. ci stavano massacrando con la chiara intenzione di condurci alla disintegrazione psicofisica. Ma anche la guerriglia sapeva rispondere a tono. Non è semplice per chi non l'abbia vissuto capire cosa voleva dire essere prigionieri in quelle galere, specialmente all'Asinara, durante il primo periodo della loro apertura. Del bunker e del pollaio ho già detto nelle righe precedenti. A Fornelli le condizioni di vita ricalcavano quelle delle due minuscole sezioni della centrale, pretendendo in peggio i caratteri della stabilità. Vigeva l'isolamento per i piccoli gruppi formati da due celle ciascuno. La composizione di questi due nuclei, di questi nuclei era decisa dal direttore Cardullo e non si poteva incontrare mai, né all'aria né durante le ore di segregazione, i reclusi appartenenti alle altre unità. Il cibo era insufficiente, disgustoso e indigesto. L'acqua corrente non risultava potabile, aveva gli odori e il colore del liquame di fogna. Le celle erano umide, prive di riscaldamento, le docce si facevano ogni 15 giorni e le lenzuola venivano cambiate una volta al mese, se andava bene. Questa disciplina rigidissima era imposta a colpi di manganello, bastava scambiare una parola coi detenuti delle altre celle per essere selvaggiamente aggrediti dalla squadretta di turno. Di notte le guardie si impegnavano per non farci dormire. Tenevano le radio accese a tutto volume, sbattevano i manganelli contro le porte blindate delle celle e facevano scorrere le canne dei mitra sulle sbarre delle finestre. Di giorno le grida, gli insulti e le minacce si sprecavano, conditi talvolta da qualche colpo d'arma da fuoco sparato in aria a scopo intimidatorio. Le perquisizioni corporali erano continue, venivano ripetute più volte al giorno e sempre con il rito dello spogliarello integrale e delle flessioni sulle ginocchia. Le ispezioni nelle celle erano occasione per fare scempio dei pochi effetti personali consentiti ai detenuti e spesso si concludevano con dei pestaggi somministrati per un non nulla. Quanto ai familiari, i colloqui si facevano comunicando con dei citofoni attraverso vetri divisori blindati. La sala di bitta agli incontri era tutta intelaiata di metallo e si divideva in piccoli cubicoli costruiti allo scopo di isolare i nuclei ben distinti, sia i detenuti sia i loro visitatori. I parenti scendevano a Cala d'Oliva già intimoriti dalla traversata in battello, compiuta circondati da sole uniformi. Dal porto venivano trasportati fino a Fornelli con lo stesso pullman impiegato per il cambio alle guardie in servizio nelle varie diramazioni. Durante il tragitto questi uomini e queste donne, stanchi e tramortiti per il lungo viaggio, ricevevano minacce e sgarbi immotivati. Non di rado sulla soglia della sala colloqui dovevano apprendere che arcani impedimenti avevano reso impossibile la visita al loro congiunto. Per noi la gestione degli incontri coi familiari era la parte più difficile del meccanismo di tenuta morale. Arrivavano stralunati, abbattuti, increduli, e occorreva rincuorarli attraverso i vetri blindati, minimizzando il peso delle condizioni di vita che dovevamo sopportare. Le umiliazioni imposte alle nostre madri, alle nostre compagne e ai nostri parenti non avevano niente di casuale. Il sadismo di Cardullo arrivò al punto di obbligare i familiari che avevano due recluse all'Asinaria, come capitò a Anna in qualche momento di quegli anni, di doverne scegliere uno solo perché il permesso non poteva essere raddoppiato. Sì, naturalmente Pasquale aveva un fratello, quindi sua moglie era cognata di suo fratello e non poteva visitare, doveva scegliere tra suo marito e suo cognato. Questi metodi sono durati a lungo e se da un lato non ha senso rammentarli con vittimismo, dato che le organizzazioni combattenti rispondevano uccidendo poliziotti, magistrati e uomini politici, dall'altro è comunque un fatto che lo Stato italiano, la pretesa democrazia nata dalla Resistenza, aveva allestito un sistema esplicito di guerra contro i detenuti appartenenti ai gruppi armati comunisti. Un po' di musica. Yeah. Bene, di nuovo qui con Pasquale Abbatangelo, correvo pensando ad Anna, una storia degli anni 70. Dunque, questo passaggio dai Napa alle BR e l'arrivo a Fornelli, la dichiarazione di guerra dello Stato italiano ai gruppi armati delle organizzazioni comuniste combattenti. Sia come sia, spronati dalla prova di forza della campagna di primavera, che a nostro giudizio era stata comunque vinta dalle BR, iniziamo a porci il problema delle lotte e dell'organizzazione interna nelle carceri speciali. All'Asinara le cose non furono affatto semplici. Il problema più grande restava quello della comunicazione tra le celle. Solo dopo un lungo e complicato periodo di adattamento alle brutali condizioni di prigionia, riuscimmo a superare l'isolamento tra noi e a far circolare oltre le mura del carcere la nostra voce. Questo fu possibile grazie ai sistemi clandestini che affinammo sulla base delle esperienze dei detenuti politici e di quelle maturate nel corso delle lotte dei proletari prigionieri italiani. Cominciammo praticando dei piccoli fori tra le pareti delle celle con strumenti di fortuna. Tra i buchi mascherati con la mollica del pane potevano circolare dei bigliettini di carta velina riempiti da una scrittura microscopica che ci costava ore di fatica. In questo modo riuscimmo a discutere delle grandi e delle piccole cose. Alla fine, ecco, diciamo, alla fine appunto si scambiano queste, con questo sistema che appena è stato appena raccontato, anche appunto le singole posizioni su questioni, appunto anche come stava andando il processo di Torino e la discussione dei vari, così, delle varie questioni tra i compagni, alla fine diciamo si evidenzia questo, che le BR ammettono chiaramente che gli obiettivi strategici, ovvero insomma quello che erano per loro gli obiettivi strategici, la creazione del partito armato, insomma la rivoluzione eccetera, e l'unione del politico con il militare, gli obiettivi strategici non potevano e non dovevano mascherare un'assenza di iniziativa sui problemi immediati. Di fatto si trattava di un riadattamento dell'esperienza dei NAP alle nuove condizioni create dalla inaugurazione del circuito dei Camosci e dallo sviluppo dello scontro determinato dal sequestro Moro, dice sempre Abbatangelo. Ecco, estratto da un documento di quegli anni, insomma, delle BR, presentato in corte d'assise durante il processo guerriglia, insomma, nel 78 a Torino, firmato anche da Abbatangelo, no scusate, firmato dai vari militanti delle BR storici, e il programma strategico. Sì, no, non ve lo leggo tutto, però i punti sono questi, insomma, cioè molto precisi. Il programma strategico è preciso: liberazione di tutti i proletari, distruzione di tutte le galere. Ciò non significa però un'assenza di iniziativa sui problemi immediati, che sono semplicemente l'abolizione del trattamento differenziato. In quegli anni lì era stato appunto dato questo colpo dalla Chiesa e soci, che era appunto pesante, insomma, le carceri speciali, il trattamento differenziato, era la prima volta che succedeva. È il compito più urgente, esso comprende, punto primo, eliminazione dell'isolamento individuale di gruppo, che significa conquista di spazi di socialità all'interno, eccetera. E punto secondo, abolizione dell'isolamento verso l'esterno, vale a dire eliminazione dei vetri divisori a colloquio, del blocco dell'informazione e della corrispondenza. Ecco, le BR, questo è il programma immediato di lotta che le Brigate Rosse propongono per le carceri speciali a tutti i proletari. Il 19 agosto partì il primo ciclo di lotta a Fornelli, la settimana rossa. Di buon mattino, venne chiamato il primo gruppo di prigionieri destinato ai colloqui del sabato. Entrai, insieme ad altri quattro compagni, nella sala con i vetri divisori che ci separavano dai nostri familiari. I parenti avevano viaggiato tutta la notte e, come al solito, erano stanchissimi. Noi ci sedemmo e, con un riguardo che non poteva concedersi troppi preamboli, li avvertimmo che stava per cominciare una protesta il cui obiettivo era la conquista di condizioni minime di vivibilità all'interno del carcere. Anna e Marco, il bambino, erano seduti davanti a me. Il bambino aveva appena 8 anni e mi guardava con gli occhi belli della fanciullezza. Spiegai quello che dovevo spiegare, poi dissi: adesso scansati, Marco, che il babbo spacca tutto. Presi la sedia e iniziai a sbatterla contro i citofoni, contro i vetri blindati. Gli altri compagni facevano lo stesso, anche se non potevo vederli a causa dei muri divisori che ci separavano. Ben presto le guardie ci portarono via di peso. I vetri si erano incrinati e qualcuno era stato anche sfondato. All'aria i compagni si rifiutarono di entrare nelle celle. Noi cinque venimmo immediatamente trasferiti da Fornelli alla centrale, chi al bunker, chi al pollaio. Lungo il tragitto venni percosso e insultato, con le braccia ammanettate dietro la schiena, una museruola per cani applicata sul viso. Anche i detenuti, asserragliati nei passeggi, vennero attaccati dalle guardie, che irruppero cortile per cortile con scudi, caschi e manganelli, cappeggiati dal direttore. I compagni si difesero come poterono, ma alla fine furono sopraffatti, trascinati nelle celle a suoni manganellati. In un cortile Mimmo Deli Veneri riuscì a tirare un paio di cazzotti a cardullo. Horst Fantazzini, invece, venne picchiato così selvaggiamente che fu necessario ricoverarlo d'urgenza all'ospedale di Sassari. Il giorno dopo, fino al 26 agosto, il rifiuto del rientro si ripeté con le stesse modalità, le stesse conseguenze. Nelle celle, inoltre, i detenuti inscenavano rumorose battiture con le gavette di alluminio percosse contro i cancelli e le porte blindate. Il silenzio terroristico dell'asinare era stato interrotto, ma al di là di qualche vaga promessa, la disciplina non venne modificata. Dopo 20 giorni di punizione in centrale, venni riportato nuovamente a Fornelli. Era già in corso un bilancio della settimana rossa e si riteneva di dover alzare il tiro. Il 21 settembre, durante l'ora d'aria, ci inerpicammo sulle grate di ferro che sormontavano i passeggi. Smantellammo le reti metalliche e scavalcammo le pareti divisorie, concentrandoci tutti in un unico cortile. Le guardie, colte alla sprovvista, rimasero sbalordite da una coordinazione che aveva funzionato perfettamente, a dispetto della rigida separazione a cui eravamo sottoposti in modo costante. Per noi quella riunione collettiva fu semplicemente una festa. Vedevo per la prima volta molti dei miei compagni di prigionia. Ci abbracciammo, orgogliosi e decisi a dare filo da torcere alle guardie che avrebbero dovuto riportarci in sezione. Avevamo lavorato giorni con pazienza e determinazione, segando e rimuovendo uno per uno gli agganci su cui poggiavano le reti senza farci scoprire dagli agenti di custodia. Adesso, per rinchiuderci nelle celle, i secondini dovevano fare i conti con tutti noi contemporaneamente, e l'operazione non si presentava affatto semplice. Approfittammo della loro indecisione per suggellare il successo della giornata, scrivendo noi stessi la parola fine alla protesta. Raddoppiamo autonomamente l'ora d'aria, poi rientrammo nelle celle, dandoci appuntamento il giorno dopo. nel resto della vita, le celle violate, il carcere speciale, le rivendicazioni, la fame e la tinara, i torturatori e le perquisizioni, la porta censurata, la porta sottratta, le notti insonni e la schiena percossa, i vetri colloqui, il cuore alla gola, i trasferimenti, le distanze, mani alla testa, le cariche vili, l'assalto coi cani, il sangue sui muri, il freddo bastardo, il sangue alla bocca, i pugni contratti, i compagni di sempre, l'isolamento, i compagni traditi, la rivoluzione, i compagni di sempre, l'isolamento, i compagni traditi, la rivoluzione. Bene, stiamo ascoltando in questa band, loro sono i Contrasto, dal loro ultimo album Solo per te, album che è uscito esattamente un anno fa, cioè nel giugno del 2023, e ormai mancano pochissimi minuti e siamo giunti al termine di questa trasmissione, che è Zardins Magnetics, che va in onda ogni giovedì dalle ore 20 alle ore 21:30, proprio in diretta radiofonica, qui dai studi di Radio Onde Furlane. Ricordo che questa trasmissione viene condotta dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione del Friuli e Trieste, oggi 13 giugno, prima di concludere, come di consueto vi detto i nostri contatti, ovvero se dovete scriverci tramite posta elettronica scrivendo a liberetutti@autistiche.org oppure in forma cartacea ad Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centro 34121. Anzi, ripeto, Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centro 34121. Poi la puntata odierna, ma anche quella delle volte scorse, potete andare a riascoltare il tutto nel blog zardinsmagneticsradio.noblogs.org. Nient'altro da aggiungere se non l'appuntamento al prossimo giovedì. Salutiamo chi ci ascolta domani in replica sulla web radio dalle ore 17. La web radio è Radiazione. Quindi ciao a tutti, un ultimo brano per il contrasto, band romagnola, e questo è l'ultimo album, Solo per te. Ciao a tutti.